Penso che questa vicenda dimostri che siamo un paese di irresponsabili in senso tecnico, cioè che nessuno vuol prendersi una responsabilità e chi se la prende viene massacrato. Allora, non gli costa Air France 138 milioni di euro all'Italia, c'è anche un debito di 1.400 milioni di euro, c'è una ricapitalizzazione di un altro miliardo di euro. Stiamo parlando di un impegno di circa 3 miliardi di euro nell'insieme. C'è qualcun altro che arriva con 3 miliardi di euro? Benissimo. Cioè, come si può pensare che il governo italiano fosse e sia contrario a un'accordata italiana? Come si può ragionevolmente pensare una cosa del genere? Ho avuto a che fare per troppi anni con queste questioni, crisi di imprese, eccetera, per non sapere che quando c'è un'impresa appetibile, buona, c'è neanche bisogno di conoscerla, che arrivano da tutto il mondo per prenderla, nel mondo di oggi. Su Alitalia, dopo la cura che il centrodestra gli ha fatto per 5 anni, è diventata difficile venderla. Bisogna prendere atto di questa cosa. E bisogna sapere che ci sono di mezzo migliaia di lavoratori che oggi sono di fronte a una scelta che ha le sue difficoltà. Però attenzione, perché possiamo trovarci in una situazione veramente seria e queste cordate improvvisate di notte, dopo un anno e mezzo che è in corso la vicenda, mi sanno di cose così. Ecco, rimango abbastanza allibito. Detto questo, sia chiaro, lo ripeto e lo ripetiamo, per tutta questa fase si è perfettamente in tempo a far proposte migliorative.